Con Alessandra Mauro, curatrice della mostra Un mondo giovane, le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum, alla Spezia, alla Fondazione Cari Spezia, dal 16 dicembre 2018 al 3 marzo 2019. Alessandra, ben trovata. Grazie, eccomi. Ci presenti questa mostra? Sì, certamente. Allora, questa mostra nasce da un'idea molto semplice, se vogliamo, e cioè mi sono resa conto che lo studio, l'osservazione delle nuove generazioni è qualcosa che ha percorso tutto il lavoro dei fotografi Magnum, dall'inizio, dalla fine degli anni 40, primi anni 50 ad oggi, da quando, cioè, Robert Capa ebbe l'idea nel 1951-52 di coinvolgere alcuni dei fotografi su un progetto collettivo che lui aveva chiamato Generazione X, andare a vedere che cosa pensano, che cosa fanno la prima generazione, i ragazzi della prima generazione usciti dalla guerra senza averla combattuta di fatto, appena giovani, e quindi forse ancora con le possibilità di cambiare il mondo in mano. Ecco, da quel momento in poi, varie volte i fotografi Magnum, in modo diverso, si sono soffermati sul racconto di che cosa può essere appunto il sogno, la voglia di cambiare il mondo della generazione, anche come un modo nel presente per cominciare a vedere il passato. E quindi abbiamo raccolto 11 reportage particolarmente significativi dedicati ai giovani dal 1952 ad oggi, con moltissime foto sul contemporaneo di adesso, e sono in mostra. Da quali paesi sono rappresentati? Allora, dunque, abbiamo molti paesi, perché si comincia con l'India, il Giappone, l'America di Wayne Miller, che negli anni 50 fotografava i suoi figli, questi suoi figli che per la prima volta vanno alle feste, hanno le macchinone, vivono l'adolescenza con tutti i problemi che noi conosciamo, perché dobbiamo non dimenticarci che il termine teenager nasce proprio in questo periodo, alla fine degli anni 40, come proprio una nuova categoria, quasi, una nuova fascia non identificata dei ragazzi che non sono, per il fatto di essere ragazzi, dei giovani uomini, ma sono delle persone che hanno delle necessità proprie, diverse. E quindi questi teenager poi li vediamo andare avanti, li vediamo partecipare al Maggio 68, li vediamo quindi in Francia, li vediamo partecipare e creare le prime comunità hippie in California, e poi li vediamo ad esempio affrontare il tema della religione, un tema quanto mai cruciale in questo nostro momento, nelle fotografie di Abbas, che dagli anni 80 al 2000 ha cercato di raccontare l'attrazione della religione per i giovani di tutto il mondo e delle volte anche ovviamente il razzialismo. E poi ancora l'immigrazione, in una bellissima installazione fatta da Antoine Dagatà. Il fotografo italiano Alex Maioli ha raccontato lo smarrimento del dopo Bataclan in alcune immagini molto belle, prese il giorno dopo l'attentato, in cui i familiari e gli amici dei ragazzi morti sono lì che piangono disperati. Le foto sono molto belle, sono molto toccanti e appunto anche queste purtroppo quanto mai attuali. E poi ancora un altro fotografo italiano, Lorenzo Meloni, ci racconta la guerra in Siria che è combattuta da ragazzi, da giovani. Abbiamo le donne arabe dell'Arabia Saudita, le ragazze dell'Arabia Saudita, che hanno dei comportamenti particolari, che vivono una vita che noi difficilmente riusciamo a conoscere e anche a capire con la nostra mentalità. La precarietà del lavoro è nei call center inglesi, fotografati da Martin Parr. E poi infine Alessandra Sanguinetti ci racconta una storia bellissima, quella di due ragazze, due amiche, che lei segue dall'infanzia fino ad oggi, ormai sono diventate mamme tutte e due, giovani mamme, e seguendo queste due ragazze ne ripercorre i sogni, le aspirazioni, il dissidio che noi tutti abbiamo tra ciò che sogniamo di essere e poi dopo la realtà, cosa ci porta a vivere. E con queste foto sognanti, molto belle e molto tenere, termina la mostra. Quali sono stati i criteri di selezione? I criteri di selezione sono stati di andare a cercare appunto alcuni momenti nevralgici del racconto dei giovani e anche dei momenti di passaggio delle generazioni. Anche perché poi, oltre queste 11 bellissime storie, questi 11 splendidi reportage. Alla mostra è associato anche un video della Magnum in cui lì possiamo vedere tantissimi reportage, quindi 11 sono proprio scelti e messi al meglio, per così dire, ma poi in questo video se ne vedono molti molti altri. Cerchiamo di capire proprio il modo in cui si è andata avanti. Però ecco, questi 11 fermano altrettanti momenti particolari che ci servono anche per capire il nostro tempo. Quante sono le foto esposte? Allora, le foto esposte sono, senza contare il video e l'installazione, 55. Se devo mettere anche l'installazione, arriviamo a 150, e se devo mettere il video a 300. Sono tante, nel video sono molte. È molto bello, un video di 17 minuti, molto divertente da seguire. Mettendo a confronto questi diversi periodi storici, che impressione hai ricavato? Ho ricavato due diverse impressioni. La prima è proprio come si vede da una foto all'altra, quasi da una storia all'altra, come i ragazzi, gli adolescenti, i giovani cominciano a prendere consapevolezza di ciò che loro sono. Sempre di più questo è evidente, no? Sì. Finché poi dopo abbiamo così, adesso è abbastanza evidente che poi chi è giovane ha, diciamo, delle sue regole, gli si lascia anche uno spazio anche di comprensione, anche magari di dissidio con le altre generazioni. Ecco, tutto questo è evidente anche nei reportage, come piano piano sia intervenuto non lo so, nel modo in cui ad esempio i ragazzi hanno di decidere da soli come vivere, come vestirsi, come pettinarsi. Noi sappiamo anni 60, anni 70 quanto tutto questo ha rappresentato anche un segno distintivo molto forte. E dall'altra parte penso che appunto sia molto interessante vedere come la fotografia, come il fotogiornalismo voglia veramente dire riuscire a essere vicino, a raccontare con una giusta distanza, non troppo distante e non troppo vicino per non essere invischiati, la realtà. Ecco, molti di questi reportage raccontano anche questo, quanto sia importante comprendere, per così dire, ciò che si agita, ciò che esiste, ciò che forse diventerà parte della nostra società. Esiste un catalogo? Esiste un catalogo che costa, mi sembra, 24 euro, che viene venduto anche in mostra e che abbiamo editato tra Contrasto e la Casa di Risparmio di Ostezia. E allora ricordiamo l'appuntamento con la mostra Un mondo giovane, le nuove generazioni nello sguardo dei fotografi Magnum alla Spezia, Fondazione Carispezia, dal 16 dicembre 2018 al 3 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Alessandra Mauro. Un Grazie. in bocca al lupo e a presto. Crepi, a prestissimo, grazie.